buongiorno Carlo, complimenti per la trasmissione. Grazie. Sono un interista incazzatissimo. Io te la facevo un tiro, la palla che ti facevi il tiro, io non girava mai, andava fisso e andava sempre allo stesso posto. Io la maggior parte delle colpe le do al presidente, perché non so, magari per il lavoro che fa, con i fumi del gasolio si è rovinato il cervello. Tutti convocati di Carlo Genta. L'ho riempito di caffè, così non manca niente. Bene, e dove sono le olive? Le ho messe dentro. E le patatine? Ho messo olive, patatine, sottaceti e cefalo. Oh, brava, passeremo una bellissima giornata. Zio, andiamo? Tieni il cappello e il cappotto. Non vengo. T'ho già detto che oggi non esco di casa. Ma zio, è la giornata ideale per un picnic. Ma questa gotta mi fa un male del diavolo. La notte scorsa non sono riuscito a dormire dal dolore. Secondo me sbagli a restare a casa, perché un po' di sole ti farebbe bene. Beh, io mi faccio un picnic per conto mio qui. Niente affatto, invece vieni proprio con noi. Amici miei, ma quale picnic? Franco Piantanini, autore di questo programma, Filippo Aureggio in regia, siamo qui a Radio 24 a parlare con voi di sport in questo 25 aprile e io mi auguro che voi dai picnic in campagna avrete voglia di parlare con noi all'800240024. Io ieri ho detto dopo la disfatta del Bayern di Monaco, del Barcellona ad opera del Bayern di Monaco, beh, una finale tutta tedesca no, non me la sento, però provate voi a fermarli questi 4-1 al Real Madrid. Eccola qua. Finisce qui. Finisce l'andata delle semifinali di Champions League a Monaco con un risultato clamoroso ma meritato, perché il Bayern mette in ginocchio il Barcellona come era difficile prevedere, come non era mai accaduto prima nella storia recente del Barça. Il Bayern vince 4-0 all'Allianz Arena contro il Barcellona, una vittoria incredibile. A Dortmund il Borussia travolge con un monumentale Lewandowski, il Real Madrid ne segna 4 il centravanti polacco. 4-1 alla Real Madrid tra 6 giorni, il ritorno al Bernabeu per Mourinho. Si prospetta una remontata durissima, possibile, ma davvero dura, anche perché il Borussia Dortmund è una grandissima squadra. E adesso tutta la retorica della remontada in bianco o in blaugrana, insomma raccontatecela voi. 8 gol incassati, uno solo segnato per le due spagnole. Filippo Maria Riggi, corrispondente della Gazzetta dello Sport dalla Spagna, il nostro amico. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Peggio di così, credo, era impossibile anche immaginare. Guarda, la sconfitta del Barcellona ci poteva stare, io insomma... Anche quei 4? Io avevo detto 3-0 e 1-1, io pensavo, perché il Barcellona è insomma, una squadra che perde 2-0 col Milan, con una difesa come quella del Milan, non costruendo quasi niente, se la rischia col Bayern, perché il Bayern è una squadra, uno squadrone... Ero stato a Monaco mercoledì scorso, insomma ero tornato con un'impressione di grande forza, grande sicurezza nei propri mezzi, che non è la spavalderia, non è spocchia, è proprio la forza. E allenamento aperto, entusiasmo, e la parola entusiasmo è per me la parola chiave della serata di ieri. Allora Filippo, tagliamo la testa al toro, e il Barça è finito qui? Ma no, il Barça non è finito qui, perché comunque intanto vince la Liga, che comunque no, meglio che un calcio sui denti, come si diceva a Roma una volta. Sì. E poi perché comunque Messi ha 25 anni. Messi, perdonami. Messi che è il grande Ecco, parliamo di Messi se vuoi. Parliamo di Messi che ieri dice che io già ho insomma battibeccato con gli ascoltatori e lo farò anche oggi, 800240024, perché questo parallelo, questo rimbalzo tra Messi e Maradona eccetera. Messi che dice proveremo la remontada, a me non piace, io preferisco Piqué, o che dice ci hanno presi a calci nei denti, io preferisco Dani Alves che dice giù il sombrero davanti a questo Bayern di Monaco. Esatto, come ha fatto anche Sergio Ramos ieri sera, veramente eccezionale, un'autocritica spettacolare, lucidissima. Tra l'altro Sergio Ramos ha parlato all'uscita dal campo, una lucidità, dopo 90 minuti così ti hanno appena massacrato, lui dice è stato un problema di attitudine, però raccogliendo nella parola attitudine, di atteggiamento, una serie di fattori, perché poi li ha anche spiegati, cioè dice siamo entrati male, non ci siamo ripresi, Messi, ti rigiro la questione. Lunedì sera ho avuto la fortuna di essere in studio con Cristiano, ormai sono andato, Cristiano Ronaldo il fenomeno, il brasiliano, per un'ora e mezza per ripercorrere la sua carriera. Ronaldo quello vero, è un fenomeno, ma è un fenomeno di comunicazione, ha un carisma. Lo so. Messi si riempirà di gol e si riempirà la casa di palloni d'oro, però non ci darà mai una trasmissione così, perché quello ma viene ascolta lì, Filippo, ma lo so Filippo, ma la differenza è questa, quelli che chiamano e dicono Messi come Maradona, Messi quanto Maradona, e guardate i gol di Messi rispetto a quelli di Maradona, e guardate Messi nel confronto con Ronaldo quello vero come dici tu, però Messi manca di questa personalità, ed è per questo che tu lo sai che io ho un debole per la camiseta albiceleste, no, per motivi familiari, per fatti miei, però non porterà mai un mondiale all'Argentina. No, ma attenzione, questo io non lo voglio dire, perché nel calcio non si sa mai, ve lo può portare. Ma per personalità. Però il problema è, attenzione, poi c'è anche il lato oscuro del piccolo Messi, perché il piccolo Messi poi in realtà è un grande dittatore. L'altro giorno lui non doveva giocare, allora lì se tu sei un campione alzi la mano, cioè non puoi tenere Fabregas in panchina tutto il tempo, e Fabregas sapeva che non avrebbe giocato, Villa ha giocato 10 minuti, perché Messi vuole così, Messi è comunque, cioè l'allenatore era completamente schiavo della situazione, e tra le ragioni che hanno indotto Pep Guardiola a lasciar perdere c'è anche questa difficile gestione di quello che è sicuramente in questo momento il miglior giocatore del mondo e anche magari degli anni a venire, cioè un fenomeno assoluto, un grandissimo campione, però è anche una sì, persona comunque complessa, ma difficile, Filippo, non però è un uomo come, che ti fa... No, ma come tutti i grandi campioni, però il grande campione dice ok, gioco io, Fabregas sta in panchina e io ti risolvo la partita. Io sono il trascinatore di questa squadra, io mi carico la squadra sulle spalle. Ma lui l'ha fatto tante volte, lui l'ha fatto tante volte, però stavolta non ce la faceva fisicamente, perché anche col Paris Saint-Germain loro sono passati solo grazie a Messi. Messi è entrato, ha toccato un pallone e li ha fatti passare. Quindi voglio dire, non si può, non si discute, Messi. Le qualità di Messi non le discute nessuno. Le ha salvati tante volte, poi ha segnato di testa nella finale di Champions League a Roma contro il Manchester United, non è quello, però a un certo punto il Barcellona si ritrova schiavo anche di questa situazione, perché voglio dire, è chiaro che tu cosa fai? Però in questo caso, l'altro giorno era una situazione puntuale, perché Leo non stava bene e niente, hanno dovuto insistere fino alla fine. C'è questo giallo del padre, ha detto a Mingheia, che è un uomo molto vicino al Barça, così ex procuratore, no, quello anche dell'affare Maradona, si incontrano a pranzo e dice no, ma mio figlio non sta bene. Allora, perché gioca? Ovviamente adesso il padre Messi ha negato così, ma in realtà la frase gliel'ha detta. Filippo, però queste partite le giochi, cioè se sei un campione le giochi con una gamba sola e magari con qualche puntura. No, lui ci ha provato, però a un certo punto vedi che non ce la fai, devi cambiare, perché comunque se dall'Allianz Arena questi uscivano con un 3-1, cioè era un'altra storia, anche persino un 4-1 che l'abbiamo visto il giorno dopo, cioè il 4-1 del Real Madrid, è ancora ipotizzabile qualcosina, poi per me non succede niente, perché comunque il Borussia Dortmund si è dimostrato superiore tutta la stagione, perché questi hanno già battuto il Real Madrid e nel gruppo sono venuti qua al Bernabeu, hanno pareggiato, ma perché il Madrid ha pareggiato all'ultimo minuto. Però lì, ecco sul Borussia Dortmund, lì magari ritorniamo, cioè, qua c'è un entusiasmo eccezionale, cioè, questa è una squadra che vuole giocare a calcio, perché se tu pensi alla partita di ieri, Cristiano Ronaldo ha fatto gol al 43 o 42 del primo tempo, è una mazzata per qualsiasi altra squadra. Certo, uguale, non importa, tornano fuori in campo, poi c'è l'atteggiamento che è eccezionale, è lì che dici, che io, sai quando uno dice cosa vorresti, no, la tua squadra, le squadre italiane, cosa vorresti, ecco questo, cioè tu tornano in campo, hai appena preso una mazzata, cioè davanti comunque uno come Ronaldo, che ha di nuovo fatto gol, e tutto uguale, via, come i brasiliani, palla al centro e si va avanti, si dimentica il gol, subito. Filippo, ti chiedo un attimo di pazienza perché abbiamo parlato tanto del Barça, poco del Real Madrid. Vorrei chiudere il discorso con te dopo la viabilità sul Real Madrid, che io vedevo in finale, cioè una finale tutta tedesca, io faccio fatica a reggerla, non so se riesco a guardare i 90 minuti più supplementari, ti dico la verità. Siamo molto contenti, ho segnato 4 gol. È stato incredibile per me e per tutta la squadra. Abbiamo ancora una volta dimostrato cosa sappiamo fare e vogliamo arrivare in finale. Questo era Lewandowski, 4 gol ieri al Real Madrid de Mourinho, con Götze, che peraltro ha giocato una grande partita, che il giorno prima era ufficialmente passato al Bayern di Monaco con una tempistica interessante, direi. Filippo Mairicci, sempre corrispondente della Gazzetta dello Sport da Madrid. Allora Filippo, io pensavo, cioè nella mia fantasia c'era Mourinho che andava a giocare alla finale a Londra, che restava lì a dormire. Come? Restava lì a dormire, andava via sulla macchina del Chelsea, come esatto, come ha fatto, no? Diciamo, da grande interista quando l'Inter vinse la Coppa dei Campioni, bueno, e lui rimase qui dimostrando il suo grande affetto, il suo grande cuore nell'azzurro, che poi ci ricorda ad ogni occasione. Che cattivo che sei tu. No, io ricordiamo sempre che io nasco come interista, poi non me ne frega ormai però sai, ho la fortuna di non aver praticamente mai fatto, diciamo, calcio italiano o le squadre italiane, quindi, però in quella semifinale, in quella finale, non so, ripensando a mio padre che mi aveva attaccato questo, no, l'interismo, perché era milanese, così avevo tifato. Insomma, ma io lo dico questo per Mourinho, perché non mi venga a vendere questo interismo suo, che poi dopo appunto non è tornato neanche a Milano. Comunque, torniamo a noi. Torniamo a noi con Casillas, cioè l'epurato, che in conferenza stampa dice: credo nella remontada, col Dortmund bisogna morire in campo per poter andare a Wembley. Sì, però aspetta che Iker ha detto altre cose più interessanti. Naso che cresce. Sì, vabbè, ma Iker ha detto che praticamente non si parla con Mourinho, che non è male, e infatti i tifosi sono piuttosto avvelenati, dice poteva risparmiarselo e via dicendo. Praticamente dice sul piano umano non c'è rapporto, e quindi piove sul bagnato. Però vuol dire, questo è che Mourinho se l'è anche cercata, perché sicuramente non ha gestito al meglio il rapporto con quello che è un giocatore comunque importante, un simbolo della squadra, il capitano del Madrid e della nazionale. No, se appunto ritorniamo all'inizio, se la sconfitta del Barça poteva essere ipotizzabile, ovviamente magari non in queste dimensioni, anche se io ti dico un po' ci pensavo, no, quella del Madrid è assolutamente una sorpresa, perché il Madrid era in grande forma e perché il Borussia Dortmund poteva essere considerato l'anello debole, no, di questo grande quartetto che è arrivato in semifinale. Però questi sono seri, hanno un buon allenatore, appunto si permettono di incassare una botta tale come quella di Götze, che, no, che viene scippato dal Bayern, e tra l'altro il Bayern, oltre al danno alla beffa, lo rende pubblico, perché quello è stato, perché alla Bild non è che li hanno chiamati quelli del Borussia, immagino, eppure superano anche questa, e la superano giocando bene. Ieri sera tatticamente Mourinho per me ha sbagliato, perché nel momento in cui gli manca Di Maria, cioè lui ha messo Ozil sulla destra e lo ha sacrificato, era un'idea che lui già aveva, perché lui Özil in trasferta non è che gliele convinca tanto, lo voleva mettere Modric, l'ha messo lì in mezzo e insomma, e lì si sono impantanati. Non c'è stata, ieri il Madrid non ha fatto un'azione degna di questo nome, perché il gol glielo regala Hummels. E poi la seconda azione migliore è il passaggio di Diego Lopez a Özil, e poi alla fine c'è il tiro di Varane. Insomma, molto molto poco anche per una squadra che è abituata a ottenere tanto facendo magari non tantissimo come il Real Madrid. Ieri sera il signor Mourinho, se si riguarda la partita, cioè, per me erano memorie della manita, memorie del 5-0 col Bayern. Senti, insomma, Filippo, la domanda epocale prima di passare agli ascoltatori è questa 800 24 0024. Allora, io immaginavo lo scenario che ti ho raccontato: Londra, Mourinho che va via, ha già detto addio al Real Madrid, eccetera eccetera. Ha gestito questa stagione in maniera molto diversa rispetto al solito, cioè mettendosi contro la squadra e dicendo: ragazzi, vedete cosa siete capaci di fare, vincete voi, che così mi date torto. Si è messo contro tutto il mondo madridista, e adesso che succede? Adesso per me rimane con in mano il classico Cerino, perché vabbè, potrà vincere la finale di Coppa del Re contro l'Atletico, che comunque sarà complicato perché è un derby, ma comunque lo vincono sempre il derby. E alla fine, analisi dei tre anni: se ne va con una Liga e due Coppe del Re e tre semifinali di Champions. In qualsiasi altra squadra sarebbe da considerare un grande bottino, qui ovviamente meno, anche se ovviamente si è scontrato e ha abbastanza smontato il grande Barcellona di Guardiola. Lui era venuto qui solo con un obiettivo, quello di vincere la Champions League. Se se ne va senza la Champions League è un mezzo disastro, insomma, comunque non può, è diciamo la sua campagna peggiore, ma lo sarà, cioè in generale è stata la sua campagna peggiore, perché qui non si è, cioè, non ha capito la Spagna, non ha capito il Real Madrid. Io è questo che gli dico a Mourinho: non ha letto bene né il paese, né il calcio, né il club, che alla fine probabilmente l'ho pagato. Grazie Filippo. A voi. Avremo ciao, da ciao, parlarne. Ciao. Ne parleremo. Ne parleremo. Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport a Madrid. Io penso che loro hanno meritato la vittoria. Il risultato non lo so, chissà, troppo pesante, però la vittoria ovvia, più forte di noi, tutte le situazioni uno contro uno loro meglio di noi, e dopo collettivamente ovviamente quando tu non eri capace di vincere le situazioni individuali non hai nessuna possibilità. Abbiamo perso tutti i primi palloni, tutto il secondo pallone, loro hanno arrivato sempre prima di noi, con più aggressività fisica e più aggressività mentale. Mi sembra che la vittoria loro è giustissima, e è la meglio squadra ha vinto. Questo era José Mourinho dopo aver preso 4 pere ieri sera a Dortmund. 800 24 0024, lo so che ci siete, anche se è il 25 aprile, anche se state grigliando le salamelle, anche se ci state dando dentro magari col vino rosso. Andrea da Reggio Emilia, buongiorno. Ciao Carlo, convocatissimo anche il 25 di aprile. Che stai facendo? Ho appena finito di mangiare, Carlo. Dove? A casa mia. Ah, in cortile, in giardino? No, niente cortile, niente giardino. Niente cortile, niente in giardino, casa. In famiglia, ho capito. Dopo andiamo in cortile, c'è il sole, dopo andiamo in giardino, prima muy bien, tutti convocati. Vengo anch'io. Ti aspetto. Ok, dimmi. Carlo, una considerazione sulle tedesche. Non capisco lo stupore che abbiamo tutti nei confronti del Bayern o del Borussia. Questi sono tedeschi, sono pragmatici. Hanno avuto calcisticamente degli anni pessimi, hanno guardato, hanno pensato qual è il problema, vediamo, capiamo, interveniamo, e adesso abbiamo squadre frutto di pianificazione e programmazione. Sì, ok, ma attenzione, non basta perdonami l'espressione orrenda che ho coniato adesso, la tedeschitudine. cioè il Bayern di Monaco è una squadra che ha anche grandissimo talento e il Borussia Dortmund pure, anche se Götze è già passato dall'altra parte della barricata, cioè non sono solo squadre tedesche che corrono, che sono rognose, che pressano, che usano il fisico, che sono pragmatiche, sono anche squadre di grande talento e di grande gioventù. Certo, certo, però hanno 8 milioni di turchi in Germania e non so quanti milioni di persone di origine africana, quindi un po' di talento un po' più esotico a disposizione adesso. Sì, ma mi sembra che Müller non sia né turco né africano. Per dirne una, ed è secondo me uno dei migliori giocatori del calcio mondiale. Ieri ne parlavamo con Paolo Condò, che ha fatto saltare giù dalle sedie tutti gli interisti dicendo l'Inter aveva la possibilità di prendere Müller un paio d'anni fa a prezzi ragionevoli, non l'ha fatto. Io prendo lui ad esempio, ma è secondo me uno straordinario giocatore di calcio, non solo corsa, non solo fisico, grande talento. Meraviglioso, un giocatore meraviglioso, hai ragione Carlo, concordo con te, però temo che noi italiani dovremmo aspettare tanti anni prima di arrivare a quei livelli lì. Perché? Perché non abbiamo lo stesso modo di approcciare le situazioni, i problemi, abbiamo un calcio che si gioca in stadi ridicoli, scomodi, fatiscenti, abbiamo una mentalità sportiva che è molto diversa da quella loro, meno sportività, non so se sia solo una questione di fair play. È anche una questione di soldi, perché è difficile trovare una squadra italiana che dice voglio Götze, 37, eccoli qui, sul piatto, lo porto a casa il giorno della semifinale di Champions League. Questo è difficile. Poi possiamo parlare, tu hai ragione, possiamo parlare di stadi, di mentalità, di tutte queste cose. Però dobbiamo fatalmente anche parlare di quattrini. 800 24 00 24, che ci sono tanti argomenti di cui discutere, comprese le rivelazioni di ieri, di come abbiamo accennato prima, di Paolo Condò, secondo cui insomma l'Inter poteva prendere Müller, uno degli attuali fenomeni del calcio mondiale, secondo me, e non da oggi, per pochi soldi, e da lì magari provare a ricostruire una squadra. So che molti interisti ieri su Twitter hanno dato di matto per queste cose, li aspetto anche al telefono qui senza problemi. 25 aprile, siamo tutti amici, è festa. 800 24 00 24, mentre ci aspetta una finale tutta tedesca che non avrei voluto vedere onestamente io. Mario, provincia di Bologna. Salve, buongiorno. Cosa sta facendo? Ma io al momento sono al lavoro, ma... Ma come? Cosa fa? Perché vi ho sentito mentre venivo al lavoro in macchina, ho detto, state... Cosa fa lei? Stiamo preparando delle spedizioni, che siamo un po' indietro. Allora, oggi, con calma... Il lavoro prima di tutto, però io vorrei anche che mi chiamasse qualcuno che sta facendo una grigliata, così almeno mi viene... No, io però l'ho fatta ieri l'altro mentre guardavo Barcellona-Bayern con degli amici, l'ho fatta lì, l'ho anticipato. Tifando per? Barcellona. Il Barcellona, data di traverso, Un pochino, e questo diciamo è anche il motivo della mia telefonata. Mi sono sentito chiamare prima in causa quando ha detto batti beccherò anche oggi un po' per Messi, e allora ho detto aspetta che mi faccio sentire, allora Messi un po'. Due punti. No, io penso che ci sia da parte sua, io ho antipatie per certe sua chi? Sua nel senso sua, di mia. Lei, nel senso antipatia, esatto. Dammi del tu che facciamo prima, allora, se no non capisco niente. No, non capisco. Allora, tu antipatia nei confronti un po' di Messi, ma non antipatia. No. Io, a me è antipatico Mourinho, magari un altro è antipatico. A me no, Mourinho no. No, ma infatti l'antipatia purtroppo a volte condiziona anche i giudizi, cosa che, voglio dire, è anche normale da un certo punto di vista, però a mio avviso il fatto che a volte si prendono in considerazione cose tipo, non so, la personalità, prima parlavate della personalità sì. di Messi rispetto a quella o di Maradona o di altri, cioè per me Messi, essendo una persona molto Maradona, problemi di mille tipi, magari grande personalità, quando parla tutti l'ascoltano, però problemi, droga, fisco, vince il mondiale, ok, però con un fallo di mano che se forse vabbè, sì, noi siamo specializzati in queste cose, dico Valentino Rossi, mi dicono l'evasione fiscale, dico Maradona, mi dicono cocaina, io sono stufa di queste cose. L'evasione fiscale in effetti non dovevo considerarla, perché in Italia se no dovremmo prenderci bene. No, ma è un, se è stato evasore fiscale, ma che finisca in galera, ma io guardo la pista. Cioè, se dico che tifo Valentino Rossi, non mi possono dire quell'evasore fiscale, quel pilota sfigato, ma non quell'evasore fiscale. Questo è giustissimo, però quando si parla di personalità, secondo me, la personalità di Messi probabilmente è inferiore a quella di qualcun altro. No, ma probabilmente. È molto più schivo, è una persona diversa, ha un carattere diverso, non si lamenta mai, difficilmente lo si vede protestare. Cioè, io sì, però fa il padroncito all'interno. Maradona, però, non è che non lo facesse. Allora, attenzione, Maradona faceva il padroncito come tutti i grandi giocatori hanno fatto i leader, diciamo così, nei loro spogliatoi. Io che confesso pubblicamente una mia debolezza per la camiseta albiceleste, per la nazionale argentina, allora io non sono... Ci mancherebbe altro contro Messi, mi auguro, cioè, lo adoro, vorrei che portasse l'Argentina a un titolo mondiale. Il problema è che mi sembra che quando viene fatto questo confronto tra Maradona e Messi si considerano i numeri e vanno bene, ma non si considera una personalità diversa. Sì, può darsi che sia vero, però in realtà oltre al mondiale, che è vero Maradona ha vinto, l'ha vinto, abbiamo detto anche prima, come, e probabilmente se come? Messi non lo ha vinto è anche colpa di Maradona, Messi non lo ha vinto la passata edizione, io do più colpa a Maradona che a Messi. Se in che l'ha... senso? Cioè nel senso che allenava lui la squadra e di conseguenza io penso abbia bueno, commesso ma più errori. Maradona, che... Maradona allenatore è un disastro, ok? No, certo. Su questo siamo... ma è corretto, io Maradona da allenatore è un disastro. È un disastro perché non ha le capacità, secondo me, neanche la lungimiranza per allenare una squadra. Io parlo del Maradona giocatore. E il Maradona giocatore ha vinto un mondiale con una squadra meno che mediocre nel 1986 in Messico, e l'ha vinto da solo. È arrivato in finale nel 1990 in Italia con una squadra meno che mediocre e lo ha fatto da solo. Negli Stati Uniti lo hanno cacciato a casa, se no io dico sarebbe arrivato almeno in finale, ma su questo non abbiamo la prova. Io voglio vedere Messi trascinare l'Argentina a quelle vette cui è arrivato Maradona. Dico solo questo. Non è che uno possa dire diverso, anche se probabilmente la nazionale di Messi oggi ha talmente, forse ce ne sono due di nazionali argentine che potrebbero vincere il mondiale, non una sola, perché effettivamente il parco che ha a disposizione è immenso, e forse all'interno di una nazionale con tanti giocatori veramente forti, probabilmente lui non ha la, in questo caso forse sì, personalità per emergere, perché è uno dei tanti, credo sempre più forte probabilmente. Però al di là di questo, che mettiamo che l'anno prossimo Maradona vinca il mondiale, a questo punto meno di Maradona, cioè che Messi vinca il mondiale, meno di Maradona non ha più nulla. No, ma infatti lo vediamo alla prova del 9, mio caro. Ti devo salutare perché devo fare una digressione. Devo fare una digressione, la faccio molto volentieri, come sempre su altri sport, perché qui non è solo calcio, è tutto quello che volete. 800240024. Allora, è tempo di finale scudetto nella pallavolo. Trento-Piacenza sarà la finale per il titolo tricolore. Dario Ricci ha intervistato il CT della Nazionale. Berruto, lo sentiamo. Finale Trento-Piacenza, coach, è sicuramente interessante anche per lei in chiave nazionale, ma interessante soprattutto per il movimento. Atto finale, che chi vede favorito dal suo punto di vista? Favorito sicuramente la squadra che si pensava fosse favorita dall'inizio e che ha la più grande esperienza dal punto di vista di finali giocate, perché insomma credo che Trento non solo in questa stagione ma nelle ultime stagioni abbia dimostrato insomma non solo di vincere tanto, ma si vuole arrivare fino in fondo a tutte le manifestazioni, quindi ha anche un altro piccolo vantaggio che quello rappresentato dal campo, come dire, favorevole, non da giocare in casa una partita in più. Questo è quello che il pronostico e la carta dicono, però poi si sa bene che insomma le partite saranno molto aperte e Piacenza è in un momento di salute psicofisica tecnica notevole. Ecco, infatti, se c'è una squadra che può fare lo scherzetto, se non altro appunto per il modo in cui ha conquistato questa finale, è proprio questa Piacenza che si è vista nei playoff, no? Sì, una Piacenza che ha giocato molto bene, che ha superato un momento di difficoltà nell'inverno, a gennaio, ha avuto qualche problema in più, è stata capace di ricompattarsi, è stata capace di giocare molto bene in queste ultime settimane, si presenta, come dicevo, con uno stato, una condizione fisica di grande qualità e quindi sicuramente non farà la comparsa. I protagonisti, due campioni che si aspetta, una per squadra, CT. Ma guardi, mi è stata fatta già questa domanda e io dico che sarà interessante guardare ai due palleggiatori, no? Che sono anche abbastanza simili per caratteristiche, che hanno tutti e due a disposizione una batteria di atleti tutti in grado di decidere la partita. Quindi sarà proprio interessante anche da un punto di vista tattico capire come questi due palleggiatori useranno le loro squadre, e credo che la sfida molto, molto si giochi in quel ruolo. Questo era Livio Berruto a presentare la finale scudetto del volley tra Trento e Piacenza al microfono di Dario Ricci, perché a noi piace parlare di ogni sport con voi. 800240024, numero verde. Gioacchino, Palermo. Sì, pronto. Buona pronto. Giornata a tutti e buona festa intanto. Buon 25 aprile. Io ho chiamato, mi sono sentito come lo spettatore. Io lo chiedo a tutti, lei che sta facendo? Niente, siamo qui a fare una scampagnata, a mangiare, ascoltiamo la radio. Finalmente qualcuno che scampagna, perché prima c'era chi andava a lavorare, chi faceva dell'altro. Io voglio qualcuno che fa. Cosa state mangiando? Sì, sì. Abbiamo finito di mangiare, è un pesce, visto che siamo a pochi passi dal mare. Mamma mia, che invidia. Forte. Dica. Allora dico, io volevo dire semplicemente questo, sono un po' come l'ascoltatore di prima, mi sono sentito chiamato in causa, perché capisco, già lei mi ha risposto intanto dicendo che è tifoso e estimatore di Mourinho, probabilmente con qualche partita vinta da Messi le sarà andata di traverso, quindi immagino che una delle ragioni potrebbe essere questa, ma dico, quali sono le caratteristiche dico, della personalità che mancano a Messi? Mi perdono. Ha vinto 3 Coppe di Campione a 26 anni, 4 Palloni d'Oro meritatamente, ha segnato nelle finali importanti di Coppa Campione, mentre ricordo di aver visto altri giocatori come Ronaldo, che ha citato lei, piangere per non aver vinto l'ultima partita di campionato. Non sto dicendo che Messi è un brocco. Non può essere giudicato solo da un campionato mondiale che... No, però lei dice piccola me personalità di Messi, mi sembra esagerato. No, mi perdoni, ma io no. Messi è un giocatore che attenzione. Allora, chiariamo bene una cosa. Messi è il più forte giocatore del mondo, è uno dei pochi giocatori, ormai il calcio mi annoia in maniera profonda. Mi divertono solo determinati giocatori e vedere giocare determinati giocatori, e Messi è uno di questi. Su questo non ci sono dubbi. Non ci sono dubbi, non dimentichiamo però il contesto in cui gioca Lionel Messi, cioè il contesto della squadra che ha dominato il calcio mondiale negli ultimi anni. Ora, se vogliamo tirare per i capelli questo annoso confronto con Maradona, che è una cosa stucchevole, perché i confronti col passato secondo me hanno poco senso di essere e di esistere, allora io dico che Diego Maradona ha vinto quello che ha vinto con il Napoli, che non era il Barcellona, ha vinto quello che ha vinto con l'Argentina, che non era uno squadrone. Dico soltanto che Messi, che ha probabilmente nei piedi, nell'anima, il talento di Maradona, non ne ha la personalità. Questo è il mio parere e non lo cambio nonostante questi appunti, che sono del tutto corretti. Giuseppe, provincia di Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono tifosissimo del Bayern Monaco, del calcio tedesco. Tifosissimo del Bayern Monaco. E non da ieri, o dall'altro ieri, ma da, ahimè, data la mia età. Dai tempi di Rummenig. No, Mayer, Fox, Breitner. Mayer, Fox, Breitner, ok, ho capito, okay. ho capito. Ho capito l'antifona. Ok, e non sono d'accordo con lei quando sì. dice che Müller è un... grande giocatore? Oddio, all'Inter è chiaro che al posto di Palacio farebbe la sua figura. È un buon giocatore, un ottimo giocatore, ma non esattamente un crack. E le chiedo, Götze, dove andrebbe a giocare nel Bayern? Questo bisogna chiederlo a Guardiola. Secondo me è insospettato di per l'esclusione appunto Müller. No, non lo credo. Credo che Guardiola abbia altre idee, anche perché Guardiola non, ora non so come voglia preparare il Bayern di Monaco, però le ricordo che non ha mai giocato con una punta vera di riferimento in attacco. Io in quel ruolo potrei anche vedere Müller, che è un giocatore che a me piace da impazzire, con Götze alle spalle in un attacco multidimensionale, diciamo così. Io non so, poi è questione di gusti, ma Müller a me piace da morire, cioè è un giocatore che io vorrei subito nella mia squadra, considerata l'età, considerato il talento, considerato il fisico, considerata la garra che ha, considerato l'attitudine che ha a certe partite. L'abbiamo visto l'altra sera con quella mezza maglietta bianca fuori dai pantaloncini. Ragazzi, è un giocatore che a me piace da morire. Poi il resto sono questioni di gusti. Io non credo che Götze toglierà il posto a Müller, perché accanisce un effesso, nemmeno Guardiola, anzi meno che mai Guardiola. Michele da Pisa. Salve, cosa ha mangiato oggi? No, io sono curioso, me perdoni, ma io sono curioso e invidioso, quindi... No, di meno può essere invidioso, perché io sono al lavoro, per cui... Beh, allora stiamo in due, abbiamo mangiato nada e va bene, ok. Forse probabilmente tanta gente non la chiama oggi, perché magari ha proprio a fare il picnic. Ma quindi no, io li saluto e li abbraccio tutti, anch'io. Sì. Senta, io invece vorrei fare un'altra considerazione, dopo che abbiamo ascoltato quasi tutta l'ora di calcio. Parlare invece di un altro campione che secondo me nel corso delle ultime due settimane ha fatto stata dimostrazione di essere veramente un campione con la C maiuscola, cioè di Novak Djokovic, che in Coppa Davis si è praticamente distrutto una caviglia, nonostante tutto nel corso della stessa partita è riuscito a ribaltare l'andamento della partita e ha portato la sua squadra, la sua nazionale alla semifinale, se non sbaglio, alla finale di Coppa Davis. Passati sei giorni è entrato a Monte Carlo e ha battuto in finale il grande Terraiotti. Djokovic è uno per cui io faccio il tifo. Sì, ma al di là, a me è estremamente simpatico. È un giocatore di grande estro, di grande talento, è un personaggio. Ed è uno che, insomma, se io vedo Djokovic contro Nadal, Michele, come te, non ho dubbi su chi fare il tifo. Faccio fatica a sopportare il maiorchino insomma. Mi piace lo sport, lo reputo un grande campione, mi alzo in piedi, mi levo il cappello di fronte a Rafa Nadal, però se vedo Djokovic contro Nadal io non ho dubbi su chi tifare, per i colpi, per l'estro, per insomma anche la capacità di divertirmi. C'era un'altra cosa, cioè al di là di questo, non volevo il confronto Nadal-Djokovic, volevo evidenziare come se nel calcio ci fossero delle figure come Djokovic, cioè che hanno dimostrato attaccamento alla nazionale in maniera estrema, cioè perché lui non aveva un leggero stiramento di una gamba, aveva una caviglia stroncata, eppure non si è ritirato, e dopo una settimana, pur mettendo a repentaglio la sua carriera, e lui è il primo del mondo, non è l'ultimo arrivato. Sì, cioè, carriera è tanto, sì. Ecco, nonostante tutto, sì, ci saranno stati anche degli interessi, però di fronte a potersi fare male magari per tutta la stagione, sì, lui ha deciso di giocare. Quindi questo, a me piacerebbe che nel calcio ci fossero delle persone così. Cioè una che mi viene in mente si chiama David Beckham, che è tanto spernacchiato, tanto vituperato, eccetera, eccetera. lui è uno che per giocare con la sua nazionale farebbe il giro del mondo a piedi. Io le dico, avrebbe sempre fatto il giro del mondo a piedi, quindi è per questo che io ho sempre avuto grandissimo rispetto per questa caratteristica di David Beckham, che è un giocatore che a me piace e che per l'atteggiamento, perché credo sia uno coi coglioni, semplicemente questo. Grazie Michele, chiudo con Ugo da Follonica, che al mare sicuramente è in spiaggia. Pronto? No. Ugo da sì, Follonica. Ciao Carlo. Ciao, sei in spiaggia? No Carlo, anch'io sono al lavoro. Ma Dio, buono, ma tutti a lavorare, non se ne può più. Guarda, io ti volevo parlare di Maradona e Messi. Io penso che Maradona è due gradini sopra di Messi. Io a Maradona lo vedevo giocare quando aveva 15-17 anni al Boca. Sì. Maradona vinceva le partite da solo, poi sulle punizioni, Maradona ogni punizione era praticamente una rete. E poi nel 78 non fu convocato per ragioni misteriose. Ugo, io vorrei parlare con te domani se è possibile, se hai tempo, perché adesso devo chiudere la trasmissione. Dall'accento capisco che sei argentino. Va bene, saluto, ciao a tutti. Franco Piantanini, autore di questo programma, Filippo Reggi in regia, domani alle 14 qui per tutti i convocati. Beato te, contadino. Adesso sto curando i tacchini e c'ho una faraona che se n'è andata, adesso devo andare a cercarla nei prati. Sei più ricco di un re intorno a te, contadino. Sto togliendo i germogli a un gelso.